Incontri di Gianfranco Fabi. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Buona domenica, forse l'avrete riconosciuta, è la musica di Simon e Garfunkel dal Laureato. Il Laureato è un film storico, un film degli anni 60, e l'abbiamo scelto più per il titolo che per la trama per parlare con il professor Guido Tabellini. Buongiorno professor Tabellini. Buongiorno. Guido Tabellini è il rettore dell'Università Bocconi, una delle più prestigiose università, non solo italiane ma d'Europa e poserei dire anche del mondo, quindi lo ringrazio di essere qui con noi questa mattina. E professor Tabellini, il Laureato è un film anche americano, lei ha avuto una parte della sua esperienza negli Stati Uniti, già da studente. Sì, grazie a voi innanzitutto per avermi invitato. Effettivamente sono andato in America subito dopo la laurea, ho passato 10 anni importanti della mia vita in California soprattutto. In California, all'Università di Stanford in California. Ho studiato a Los Angeles, a UCLA, poi ho trovato il mio primo lavoro a Stanford e poi sono tornato a finire il ciclo americano di nuovo a UCLA. E come mai è tornato in Italia? Ma per ragioni personali, perché la famiglia italiana, perché l'Italia è un paese dove si vive bene, perché volevamo essere vicini agli affetti degli amici e della famiglia, quindi per ragioni del tutto personali. Del tutto personali, e quindi però proseguendo una carriera accademica, proseguendo un grande interesse per l'economia. Come è nato questo interesse per l'economia? Ma è nato avendo la fortuna di avere dei grandi, dei bravi maestri. Io ho studiato con Mario Monti, con Onorato Castellino a Torino, e l'Italia è un paese dove effettivamente c'è sempre un dibattito animato di politica economica, dove la politica e l'economia si mischiano spesso uno con l'altra, quello che forse mi ha attirato di più, ma credo che sia qualcosa di comune a una generazione di persone, è l'ambizione di riuscire a studiare problemi sociali complessi, però con strumenti scientifici rigorosi, e quindi riuscire a intervenire sulla realtà vicino a noi tutti i giorni, ma con un'impostazione scientifica rigorosa. Sì, un'impostazione scientifica che comunque non rende l'economia qualcosa di più simile alla matematica, la rende comunque una scienza sociale, una scienza che ha come obiettivo quello di studiare, interpretare e anche, se possibile, modificare quella che è la società con le sue tendenze, con questo problema anche della crisi economica che abbiamo visto in questi ultimi tempi. Esattamente, proprio questa coniugazione della politica con l'analisi rigorosa. E questa credo che sia un fattore comune di molti degli economisti italiani in Italia e all'estero, che riescono tipicamente, a forse più che non altre scuole di pensiero, a studiare la politica economica e spesso a vederne anche gli aspetti politici, non solo quelli economici. Indubbiamente che è altrettanto importante, che vanno congiunte la politica e l'economia. La politica economica è un po' politica e un po' economia, tenendo queste basi. Lei è uno dei maggiori esperti di politica economica in Italia. Ecco, poi parleremo dell'università e dell'economia dell'università, però guardando proprio all'inizio, all'interesse per l'economia, in Italia si studia, soprattutto nei licei, si studia poco l'economia, si infonde poco la passione per l'economia tra i giovani. Tra i ragazzi. Sicuramente è così, probabilmente è in parte dovuto forse anche alla formazione dei maestri o dei professori che soprattutto nei licei, non tanto nelle scuole tecniche, hanno un'impostazione più storica di storia del pensiero e meno legata invece all'impostazione moderna della scienza economica e delle scienze sociali in generale. Quindi siamo molto ricchi di un patrimonio di idee, di filosofia e di storia, più poveri forse invece, quando usciamo dalla scuola, di un patrimonio di scienze sociali più aggiornate. Quindi ci vorrebbe un'apertura soprattutto della scuola superiore verso questi temi economici, in un'ottica appunto di società, in un'ottica di attenzione all'attualità, forse più che appunto oltre che alla storia. Sì, io credo che ci sia una forte domanda da parte degli studenti di questo, perché appunto l'economia e le scienze sociali poi hanno delle contiguità con i problemi politici e su questo c'è domanda e interesse. Però spesso mancano le discussioni informate e forse mancano proprio gli strumenti anche per comprendere l'economia. Questo è qualche cosa che magari poi più avanti nella vita porta chi non ha avuto la specializzazione universitaria in economia, porta magari anche a delle lacune. Noi sappiamo molto di certi argomenti, ma molto poco magari di come immaginare la nostra vita più adulta, come funziona la pensione, come dobbiamo impostare le scelte di investimento in base ai principi di diversificazione del rischio. Queste nozioni basilari spesso sono carenti in chi non ha avuto una formazione economica ed è un peccato. Sì, questo noi spesso diciamo, noi dobbiamo occuparci di economia perché comunque l'economia si occupa di noi e quindi è meglio essere protagonisti, responsabili, sapere con cosa abbiamo a che fare, perché incontriamo tutti i giorni dei problemi in fondo di microeconomia che però sono collegati e collegabili alla grande economia. Assolutamente, non riusciamo a sottrarci a questi problemi economici. Ecco, tra gli Stati Uniti e l'Italia, qual è la differenza maggiore, non solo a livello universitario, ma direi come approccio a queste problematiche a livello di educativo complessivo e anche forse a livello sociale? Ma sicuramente il nostro sistema scolastico nei licei, nelle scuole migliori, non è peggiore di quello americano. Questo è quello che noi constatiamo con gli studenti che vediamo in università, anche se poi nella media dei test scolastici l'Italia esce molto male. Però appunto siamo molto più forti nelle materie umanistiche classiche, siamo più deboli invece nelle materie che possono essere più rilevanti per la vita contemporanea. Inoltre negli Stati Uniti c'è uno sforzo massiccio anche da parte dell'amministrazione nella educazione finanziaria, nell'istruzione finanziaria, cosa che invece da noi comincia a esserci, ma è ancora su livelli molto modesti. Che non è servito molto per evitare i casi come quello di Lehman Brothers, però. No, e soprattutto non è servito per evitare i casi come quelli delle famiglie americane che si indebitano troppo. Quindi lì c'è anche un altro risvolto della medaglia che forse da noi è meno rilevante, questo dell'eccesso di debito nelle famiglie americane. Ecco, questo lo approfondiremo nella seconda parte. Prima di interromperci un attimo, che cosa rimpiange di più della vita corrente tra Stati Uniti e Italia? Ma dal punto di vista personale sicuramente la vita, l'organizzazione della vita è molto più semplice in tutto in America, forse perché è organizzata meglio in tanti aspetti, dai trasporti agli orari dei negozi. Però probabilmente la cosa che manca di più a chi ha lavorato e studiato nelle università americane è l'ambiente di estrema vivacità intellettuale, di apertura e di stimolo continuo che comincia a esserci adesso in Italia, ma che forse qualche anno fa era più carente. E questo per un giovane è fondamentale perché crea l'impressione che il proprio futuro dipende soltanto da se stessi, dalla sua capacità e dai propri sforzi, e non sempre così questo in tutte le università italiane. Incontri. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Con questa musica di Simon e Garfunkel dal film Il Laureato riprendiamo il nostro incontro con Guido Tabellini, rettore dell'Università Bocconi. Abbiamo parlato nella prima parte forse più di America che di Italia, una lunga esperienza come studente, come poi docente all'Università di Stanford in California e poi ritornato in Italia, docente prima e poi professore e adesso rettore della Bocconi, appena riconfermato, lo sarà ancora per altri 2 anni. Esattamente, sì. Un'attività che affianca anche quella di collaboratore giornale editorialista del Sole 24 Ore, direi quasi settimanalmente analizza, magari insieme a qualche docente della Bocconi, uno degli ultimi articoli addirittura con un suo predecessore, il professor Provasoli, in cui si parlava appunto di evasione fiscale, quindi di temi strettamente di attualità in Italia, che lo saranno ancora per qualche tempo probabilmente. Ecco, un'attività quindi di divulgazione. Abbiamo parlato prima della necessità di interessare soprattutto i giovani all'economia e anche di motivarli a cercare di essere protagonisti della realtà. Allora, l'università italiana, come si muove in questa fase l'università italiana, in particolare la Bocconi, per cercare di dare motivazione ai giovani e per cercare di renderli protagonisti di una società che deve e vuole tornare a crescere? Ma in questo momento quello che i giovani chiedono, soprattutto i nostri studenti, è una forte apertura verso l'estero. Capiscono che le opportunità economiche, forse purtroppo dobbiamo dire, sono spesso fuori dal nostro paese, capiscono che in un mondo globale una parte importante della loro formazione passa attraverso soggiorni all'estero, e quindi c'è una fortissima domanda di aiutarli a realizzare questo sogno di aprirsi al mondo, cosa che da tempo la nostra università sta facendo, che stiamo accentuando attraverso accordi internazionali con tante università. Abbiamo parlato prima di università americane, abbiamo concluso da poco accordi con Princeton, con New York, con Chicago, con Harvard. Quindi una prima forma di internazionalizzazione è quello di offrire delle opportunità di soggiorno all'estero, e poi anche con l'aiuto a trovare lavoro all'estero. Una parte rilevante dei nostri studenti trova il suo primo lavoro all'estero e poi magari torna in Italia. Ecco, il problema forse è farli tornare, perché da un profilo del paese, se no si usano grandi risorse, perché poi sono risorse pubbliche che vengono spese per l'istruzione, per istruire dei giovani che poi vanno a fornire competenze agli altri paesi. Da un profilo un po' nazionale è una perdita di ricchezza. Bisognerebbe riuscire a farli tornare, o magari ad attrarre dagli altri paesi analoghe competenze che possano rafforzare la realtà sociale ed economica italiana. Sì, io insisterei soprattutto su questo secondo punto. Penso che il fatto di avere passato un periodo della propria vita all'estero, la mia esperienza lo insegna, sia poi un patrimonio per chi torna. È importante però che non sia appunto un qualcosa di senso unico, e che il nostro paese riesca a portare, offrire lavoro e arricchire anche giovani di altri paesi. Cosa che anche questo cerchiamo di fare. È più difficile perché non è facile sempre vivere a Milano, non è facile vivere in Italia, abbiamo magari più difficoltà di quelle che sarebbero necessarie a trovargli permesso di lavoro, certo. E quindi è qualche cosa che è importante fare come paese, non soltanto come università. Ecco, ma l'università riesce ad avere docenti stranieri a contratto, ad aprire le porte anche a uno scambio culturale con un mondo certamente vasto in cui le possibilità operative sono molto grandi? No, ci riusciamo, fa parte degli obiettivi che abbiamo, che stiamo conseguendo. È più facile farlo, notiamo, all'inizio della vita lavorativa per i giovani assistant professors, e poi verso la fine, quando una persona non è così lontana dall'età della pensione, magari non ha più il vincolo della famiglia, nella fascia intermedia ovviamente le persone sono meno mobili, e forse Milano in particolare è meno attraente per una persona con una famiglia di un'età numerosa. Certo. Ecco. Ecco, un piccolo bilancio di questi primi anni da rettore della Bocconi, magari con qualche indicazione sugli obiettivi per i prossimi 2 anni. Ma è sicuramente un bilancio estremamente positivo. Io conoscevo relativamente poco la Bocconi, pur avendoci lavorato a lungo, e ho scoperto un'università piena di entusiasmo nelle parti che conoscevo di meno, e piena di talenti e di voglia di fare, sia nella parte docente che tra i giovani e gli studenti. Credo che gli obiettivi siano in gran parte riconducibili a questa esigenza di riuscire a migliorare ancora sul fronte della internazionalizzazione, sia in entrata che in uscita dei docenti e degli studenti. Vorremmo riuscire a rendere la Bocconi sempre più un'università che uno vive 24 ore o perlomeno 12 ore, non soltanto nelle aule, negli studi, ma offrendo anche esperienze di vita culturali. Stiamo potenziando le attività culturali ricreative dei nostri studenti, speriamo di riuscire a farlo anche grazie a poi investimenti negli spazi che circondano la Bocconi. Sta diventando proprio un piccolo campus urbano di cui siamo molto fieri. Ecco, Milano reagisce bene a questo attivismo, a questa attività. Fate anche delle manifestazioni, degli eventi aperti in fondo alla città. Sì, e questo grazie anche agli edifici nuovi, che effettivamente hanno cambiato la presentazione esterna, il modo in cui gli stessi docenti vivono l'università, e c'è un interesse nei confronti di questi investimenti immobiliari che abbiamo fatto, che ci consente effettivamente di portare in Bocconi tanta persona. Ecco, questo fatto, l'università deve essere comunque aperta alla società, aperta alle imprese, il rapporto con le imprese, con le attività produttive, con le esigenze delle imprese, perché le imprese poi sono le prime destinatarie di chi voi formate come studenti, come appunto come laureati, ma devono anche contribuire poi a delineare i meccanismi, i percorsi formativi, un rapporto costruttivo, un rapporto buono. Ma questo è uno dei punti di forza della Bocconi, grazie al fatto di avere laureato ormai tante generazioni di persone eccellenti che oggi si trovano nei punti cruciali dell'economia, delle imprese, e stiamo cercando di rinforzare ulteriormente questo patrimonio attraverso investimenti nelle associazioni degli alunni. La Bocconi aveva 3 diverse associazioni di alunni a seconda dei tipi di laurea o di corso di specializzazione, sono state unificate e il nuovo presidente dell'associazione Bocconi, Pietro Guindani, presidente anche di Vodafone Italia, sta facendo un lavoro eccezionale per rivitalizzare e valorizzare ulteriormente questo patrimonio di conoscenze. Ecco, allora, questi giovani economisti uniti all'esperienza degli economisti più anziani, non dico anziani come lei, riusciranno a dare una ricetta per uscire da questa crisi finanziaria ed economica, purtroppo, che da un paio d'anni sta attraversando il sistema occidentale, non solo? Ma penso che sia presuntuoso pensare di offrire ricette in un momento di crisi come questo, che rimette in discussione molte idee e molte convinzioni. In un certo senso quello che sta succedendo è che vediamo al cuore del mondo avanzato occidentale delle crisi che prima erano comuni tra i paesi emergenti, in Asia e in America Latina. Da questo punto di vista ci sono delle lezioni che possiamo trarre. Tipicamente, effettivamente, come sta succedendo oggi in Europa, molte delle crisi bancarie che sono state vissute nella storia passata o nei paesi emergenti si sono poi trasformate in crisi del debito sovrano, esattamente come sta succedendo oggi in Europa e come rischia di succedere magari di qui a qualche anno in America o in Inghilterra, perché anche quei paesi non hanno una situazione florida, certo, di finanza pubblica. Effettivamente non c'è molto di diverso da fare sul fronte della finanza pubblica rispetto a quello che l'Europa adesso sta cercando di fare. Sicuramente c'è ancora invece moltissimo da fare per governare meglio la finanza globale. Quel settore lì di lezioni che abbiamo preso dalla crisi è ancora, certo, un cantiere aperto su cui non si è fatto niente. Ecco, ma il fatto che poi queste crisi si ripetano vuol dire che si è imparato un po' poco dalla storia, perché le crisi finanziarie sono un po' una costante della realtà economica degli ultimi secoli. Ma probabilmente è difficile immaginare che si possano eliminare le crisi. Sicuramente è auspicabile, e io penso probabile, che gli effetti devastanti che abbiamo avuto in quest'ultima crisi possano non ripetersi, ma perché questo sia vero dobbiamo davvero rimettere mano ad alcuni pilastri fondamentali della regolamentazione finanziaria. Molti dicono che questa è una crisi di sistema del capitalismo, io non credo, penso che le ragioni tecniche di questa crisi siano abbastanza circoscritte e ben identificate, coinvolgono aspetti fondamentali, importanti, per circoscritte non voglio dire che sono piccole, certo, ma coinvolgono aspetti molto importanti del sistema finanziario su cui bisogna mettere mano, e io mi auguro che ci si riesca presto. Quindi nuove regole, ma anche dei comportamenti che siano più rispondenti a una visione collettiva, di benessere collettivo e non di arricchimento a breve termine individuale. Sì, questo è difficile immaginare che possa accadere spontaneamente, occorre appunto che ci siano dei sistemi di regole che garantiscono che questa tendenza all'arricchimento, magari di breve periodo, non causi poi delle crisi sistemiche. Ecco, possiamo concludere con un messaggio magari non di ottimismo così costruito ad arte, ma di ottimismo fondato un po' sulla volontà e sulla possibilità di affrontare questi problemi. Ma sì, io credo che oggi effettivamente la situazione europea nei suoi fondamentali non giustifica tutto questo scetticismo che viene dai mercati. Per una volta credo che i mercati nel loro scetticismo davvero stiano prendendo una cantonata. Andiamo davanti a un'estate ancora difficile, quindi non credo che la crisi rientrerà subito, ma mi aspetto che nel giro di un anno e mezzo guarderemo a questo secondo passo della crisi economica come qualcosa che poi era un'esagerazione della speculazione finanziaria rispetto poi ai problemi reali. però la politica in questa fase ha grandi responsabilità. È un momento delicatissimo e non abbiamo ancora visto la fine. Grazie, io ringrazio Guido Tabellini per essere stato con noi questa mattina. Guido Tabellini, rettore della Bocconi, abbiamo parlato appunto di università, di crisi internazionale, con un messaggio in fondo di ottimismo, anche perché tutti noi, nel nostro piccolo, abbiamo la possibilità di incidere, di essere protagonisti del sistema economico. Grazie a voi e buona domenica. Grazie, io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica a tutti.